البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا بنرجعها. صفقة جاو. Buongiorno Palestina. 157esima trasmissione su Radio Wombat. In questa puntata vogliamo dare voce agli interventi che si sono succeduti nelle 5 serate di Radio Gaza Live che maggiormente hanno sollecitato il nostro interesse. Gaza Live è un'iniziativa di Radio Wombat svoltasi a Firenze in Piazza Dalmazia dal 6 al 10 ottobre, con collegamenti anche dalla Piazza Indipendenza e dal corteo. Una diretta di 2 ore in onda su Radio Wombat per aggiornamenti dal basso e senza censura su quello che sta succedendo in Palestina. Ascolteremo la drammatica testimonianza di Ahmed di Gaza, che in un bombardamento ha visto scomparire gran parte della sua famiglia. Ora Ahmed è in Italia con i 2 figli superstiti, di cui uno gravemente ferito. Ci parla della sua esperienza e chiede solo di aiutarlo a riunire i suoi 2 figli. La traduzione dall'arabo è stata effettuata da Rafik, una giovanissima ragazza di Gaza che è in Italia da 2 anni e parla perfettamente l'italiano. Speriamo di averla presto ai nostri microfoni per farci raccontare anche la sua esperienza. Ascolteremo poi l'intervento di Matteo di Livorno, che ci parla delle mobilitazioni in atto dei portuali, del blocco delle navi che trasportano materiale bellico, della grande partecipazione della popolazione livornese in una città blindata dalla presenza di Salvini e prima anche del generale Vannacci. Sempre in una delle serate di Radio Live è stato annunciato l'arrivo a Firenze del Nazara Short Film Festival, rassegna itinerante di filmati brevi sulla Palestina. È un annuncio che vogliamo rilanciare, considerato che il festival avrà luogo proprio sabato prossimo, il 18 ottobre, all'ex Emerson. Ce ne parla in un'intervista Carlo, figura dell'Emerson che non ha bisogno di presentazioni. Troverete tutti i riferimenti sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. E per finire ascolterete il contributo di Radio Onda Rossa sulla sospensione dell'accordo tra il Comune di Roma e Mekorot, la società idrica israeliana responsabile del furto di acqua nei territori palestinesi occupati. Questa vittoria è un punto di partenza. Il popolo palestinese continua a resistere, ma ha bisogno del nostro sostegno concreto. Questo è scritto da Sinistra Civica Ecologista sul manifesto. Per la nostra rassegna stampa ascolterete una serie di titoli scelti nella selezione di Amicizia Italo-Palestinese e un'altra selezione in quella di Assopace Palestina. Troverete i link agli articoli sul blog della trasmissione di oggi. لكن وحياة اللي ما بيننا اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا هيبعدنا لكن وحياة اللي ما بيننا اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا هيبعدنا والمرة غلطنا أشواقنا أكيد أكيد هيرجعوا Il tempo dei miracoli della destra israeliana è finito. I palestinesi non se ne andranno da nessuna parte. di Meron Rapoport, più 972 magazine del 2 ottobre 25. Azienda di armi con radici naziste fra i fornitori di Israele nel genocidio. Di Omar Nashbi, da Al-Akhbar, 4 ottobre 2025. Una imprenditrice vuole fondare una colonia israeliana nel Salento. Di Michele Manfrin, dall'Indipendente, 3 ottobre 2025. La Palestina è ora la coscienza del mondo. Nessun accordo potrà cambiare questa realtà. Di Sumaya Ganoshi, Middle East Eye, 2 ottobre 2025. Leonardo ammette l'export di armi in Israele e fa cadere la maschera del governo. Di Duccio Facchini, Altra economia, 1 ottobre 2025. Maurizio Molinari, censurato dall'Ordine dei giornalisti per aver diffamato Francesca Albanese. Di Enrica Perucchietti, da L'Indipendente, 4 ottobre 2025. Proprio come a Gaza, i giornalisti statunitensi hanno ignorato i loro colleghi assassinati nello Yemen. Di James North, da Mondo Veis, 17 settembre 2025. Il leader della comunità ebraica statunitense ha fatto pressioni per il rilascio dell'importante prigioniero palestinese Barghouti, di Jacob Majid, The Times of Israel, 12 ottobre 2025. Mustafa Barghouti, intervistato dalla CNN dopo l'accordo di cessate il fuoco. Di Farid Zakaria, Life, CNN, 12 ottobre 2025. Io, medico di Gaza, dico, Hamas si è nutrito della nostra sofferenza. Di Ezzedine Shehab, Avvenire, 11 ottobre 2025. Il diritto internazionale, uno strumento dell'imperialismo? Intervista a Sara Trojan sulle radici coloniali, 7 ottobre 2025. Un bivio disumano per l'Italia, di Wida Tamimi, Il Manifesto, 11 ottobre 2025. Festeggiate il cessate il fuoco, ma non dimenticate, Gaza è sopravvissuta con le proprie forze. Di Ahmed Ibsais, Al Jazeera, 9 ottobre 2025. I prigionieri invisibili, di Francesca Mannocchi, La Stampa, 11 ottobre 2025. Il racconto di un ex detenuto palestinese nelle carceri israeliane, di Francesca Mannocchi, La Stampa, 8 ottobre 2025. Marwan Barghouti, segretamente rimosso da Israele dalla lista dei prigionieri, secondo una fonte. Di Lubina Massawa, Middle East Eye, 9 ottobre 2025. Video. Nella Valle del Giordano, coloni e soldati attaccano un villaggio palestinese. Di The Andrew X. Comunicato stampa 9 ottobre 2025. Omar Yaghi, rifugiato palestinese, vince il premio Nobel per la chimica. del Middle East Eye Staff, Middle East Eye, 8 ottobre 2025. La testimonianza di Ahmed, che come abbiamo detto è arrivato in Italia da poco, e in questo suo racconto è stato appunto aiutato nella traduzione da Rafiq, la giovanissima ragazza di Gaza. Ahmed quindi è una persona che si trova attualmente in Italia, che arriva dalla Palestina, è arrivato nei mesi scorsi, immagino. Vi chiediamo, cioè gli chiedo intanto di raccontarci la sua storia, come è arrivato qui in Italia. Ana ismi Muhammad min Gaza. Lan akun amluk qasran wala tarwa, lakin kunt amluk aghla shay' fi ad-dunya. A'ilati, qalbi, nabdi bil hubb. بيت في دفا وفي أم وزوجتي وبنتي وأخواتي وأطفالهم كنا نعيش رغم الألام رغم الحصار كنا نضحك نحلم. Ciao, mi chiamo Mohammed, vengo da Gaza. Non avevo un palazzo né ricchezze, ma avevo la cosa più preziosa al mondo, una famiglia, un cuore che batteva d'amore, una casa piena di calore. C'era mia madre, mia moglie, mia figlia e miei fratelli, i loro bambini. Vivevamo, nonostante tutto, nonostante l'assedio, la paura e il rumore dei droni. Ridevamo, sognavamo, ci stringevamo l'uno l'altro. Poi, in un solo istante, tutto è finito. Un solo bombardamento, senza pietà, senza preavviso, senza umanità. Ho perso 17 persone della mia famiglia, mia madre che mi benediva ogni mattina, mia moglie che mi teneva la mano nei momenti difficili, mia figlia, il mio sorriso, la mia luce, la mia bambina, e i miei fratelli, le loro mogli, i loro figli, tutti. Sono stati sepolti insieme sotto le macerie, e con loro anche la mia vita. La mia casa è stata distrutta, il mio nome cancellato, la mia identità trasformata in polvere, e il dolore più atroce è sapere che chi è sopravvissuto continua a soffrire. Odei, mio figlio, ha 9 anni, è ferito, fragile. Ogni notte mi guarda negli occhi e mi chiede, papà, dov'è la mamma? Ibrahim, solo 2 anni, non sente più la voce di sua madre, non conosce il suo abbraccio, non capisce perché ha il cuore triste. Siamo riusciti a fuggire da Gaza, non per vivere meglio, ma solo per cercare di salvare chi era rimasto. Ma nemmeno nella fuga ci hanno lasciato la dignità, mi hanno impedito di portar via una foto, un vestito, nemmeno il peluche di mia figlia. Mi hanno tolto anche i ricordi. Ora sono in Italia, in un centro condiviso. Freddo, costoso, lontano. E ho il dolore ancora qui. Ibrahim vive in un'altra casa, lontano da me, lontano da suo fratello Odei. Voglio solo abbracciarlo, ma non posso. Non posso nemmeno metterli a dormire insieme. Come se la guerra non fosse finita. Come se continuasse a dividerci anche qui. Non sono qui per chiedere pietà, non voglio carità, sono qui perché la mia voce è tutto ciò che mi resta. Io non sono un numero, non sono una statistica, non sono un'immagine da passare nei telegiornali. Sono un essere umano, un padre, un figlio, un marito, a cui è stato tolto tutto. E come me ci sono migliaia di persone. Gaza non è solo sotto assedio, Gaza muore, Gaza seppellisce i suoi figli. E il mondo guarda, in silenzio. Dicono, Israele ha il diritto di difendersi. Io chiedo, e mia figlia? Chi l'ha difesa? Chi ha difeso il diritto dei miei figli a vivere, ad avere una madre? Guardatemi, guardate i miei bambini. Questa non è una guerra. È un'ingiustizia. È un crimine. Non restate in silenzio. Non girate lo sguardo. Non vendete il nostro sangue per interessi. Alzate la nostra voce. Parlate di noi, dite al mondo, basta uccisione a Gaza, basta genocidio, basta silenzio. E vi credo un'ultima cosa, dopo aver perso tutta la mia famiglia, non voglio perdere anche mio figlio. Ibrahim deve tornare da me, deve vivere con suo fratello. Abbiamo bisogno di un tetto unico, una casa sola e un abbraccio. E tutto ciò che chiede un padre, poter stringere più propri figli. لكن هي فيك يما بلاك عايش وحدة بلاك وعايف في الله وسماك شو الله بلاك يا ولد عايش وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد. Prima di introdurre la testimonianza di Matteo di Livorno, ricordiamo per dovere di cronaca che il 4 ottobre la città labronica ha visto la presenza del generale Vannacci, contestatissimo al grido di fuori i fascisti da Livorno, no al razzismo, sì all'accoglienza, da una gran folla di popolo. E lo stesso è avvenuto il 7 ottobre per la presenza del ministro Matteo Salvini. In entrambe le occasioni ci sono stati arresti di manifestanti da parte della polizia. Buonasera a tutte e a tutti. Ciao, benvenuto. Io sono Matteo del collettivo Ex Caserma Occupata di Livorno. Per quanto riguarda il resumen e gli aggiornamenti delle nostre lotte, noi siamo ancora tutt'oggi in presidio permanente al porto. Abbiamo attraversato un momento e un periodo di lotta veramente inusuale per gli ultimi anni, nel senso che non ci aspettavamo la partecipazione della città in questa maniera. Avevamo tentato di fare qualcosa forse che pensavamo fosse più grande di noi, in verità la città ha risposto in maniera incredibile. Ci sono state settimane di lotta in cui abbiamo dormito al porto, abbiamo mandato via due navi, due zimmer che appunto portavano una serie di materiale che serviva più che altro, doveva essere riparato qui e poi rimandato in Israele, e che comunque non è stato scaricato. E poi abbiamo, dopo il corteo, abbiamo occupato uno stabile in presidio permanente dove abbiamo vissuto cuore a cuore fra portuali, collettivo di scuola di carta, studentesco, collettivo ex caserma, teatro officina refugio, le compagne e compagni che ci sono venuti a trovare e ci hanno portato il cibo e ci hanno, insomma. E quindi è stato un momento abbastanza magico. Ovviamente lo Stato ci mette sempre del suo, quindi hanno ben pensato di affibbiarci prima Vannacci, proprio il giorno nel quale dovevamo partecipare in massa come spezzone livornese alla manifestazione di Roma, la chiamata nazionale per la Palestina. E siamo riusciti a fare un grande spezzone nonostante alcuni di noi sono dovuti andare a contestare Vannacci, me compreso, e quindi prima di Salvini, che è stato invece ieri, del quale vi do gli aggiornamenti più veloci che magari non vi sono arrivati. Infatti volevamo ripercorrere un po' questi giorni e volevamo appunto avere anche un po' il quadro della situazione e sapere che cosa è successo appunto con l'arrivo di Salvini e quindi la piazza, come ha reagito. Allora, prima di Salvini c'è stato il venerdì de Fuego, che è stato il blocco totale della città di Livorno. Quel giorno lì noi siamo riusciti a bloccare tutti gli accessi commerciali alla nostra città. Abbiamo bloccato tutti gli snodi del porto, quindi Aurelia, quindi rotatoria di Via delle Cateratte, che per chi non lo sa è da dove accedono tutti i camion che vanno in Darsena. Poi abbiamo fatto un corteo da 5.000 persone che ci ha raggiunto ai blocchi che non si vedeva così dagli anni 60. 5.000 persone per una città come Livorno sono veramente tante. Per chi come noi fa questa roba da 20 anni, comunque è stata un'emozione, perché a volte abbiamo fatto cose anche importanti che non hanno ricevuto la stessa attenzione, questa volta invece sì, e quindi vabbè, quello che come è andata, però questa volta c'erano e ci hanno raggiunto a blocchi, siamo riusciti a bloccare i binari della stazione nonostante noi fossimo in presidio occupandoci prettamente del porto, avevamo i numeri per bloccare anche la stazione, abbiamo bloccato l'incrocio, poi la stazione, i binari per 2 ore, abbiamo bloccato la Mobi anche per qualche ora al traghetto, anche se era prettamente simbolico. E abbiamo cercato di fare tutto il possibile, adesso ovviamente le forze iniziano a mancare, stiamo cercando di fare fortino, non so come altro definirlo, nel senso tornare un attimo nei ranghi e quindi occuparci della lotta con un po' più di forza, perché siamo stremati, perché c'è stato Salvini, perché ovviamente non mancava di metterci anche questa prova. La città ha reagito anche in questo modo, molto compatta. Io vi ricordo che a tutte e a tutti che la città di Livorno è stata bloccata per tutta una giornata. Tutto il lungomare era presidiato da decine e decine di camionette della polizia, tutti i varchi al lungomare. Io tra l'altro per caso abito proprio lì. E non si poteva accedere da nessuna parte, anche le vie laterali erano bloccate. Un dispiegamento di forze fra moto d'acqua della polizia, motovedette, sommozzatori dei vigili del fuoco, posso continuare a elencare le forze dell'ordine messe in campo per minuti. E la città ha risposto ovviamente eterogeneamente, tutto a modo suo, però noi dalle 3 alle 8 di sera non ci siamo mossi di lì. Ci sono stati i tafferugli, è vero, noi come collettivo sicuramente non ci sentiamo di dissociarsi da nessuna forma di protesta ed espressione del dissenso nella maniera più assoluta. Noi avevamo fatto un'azione di protesta che era quella, poi ognuno viene e porta il proprio dissenso come vuole. Ci sono stati 2 arresti, abbiamo 2 compagni che sono stati arrestati, abbiamo fatto un presidio davanti alla questura per il loro rilascio, adesso stiamo cercando dal punto di vista legale e di cassa di resistenza di dargli una mano nella maniera migliore, cercando appunto testimonianze, ma cercando anche di ricostruire le cose per dare anche la nostra di narrazione, che è sicuramente diversa da quella dei media. È diversa, ma è sicuramente quella per cui tutti quanti noi parteggiamo, quindi... شو مرتاحة بلاك يا ابو عيون الدباحة مش فارق معاها حلاك عايشي وحدة ومرتاحة قولوا شو مرتاحة بلاك يا ابو عيون الدباحة. نازرة in italiano lo sguardo è una rassegna cinematografica itinerante e competitiva che si svolge annualmente in Italia dal 2017. È stata fondata dalle associazioni No Profit, Restiamo Umani, Convic e Assopace Palestina, con lo scopo di promuovere i cortometraggi che rappresentano la cultura palestinese. Anche quest'anno il Nazra Short Film Festival sta attraversando diverse città. I cortometraggi sono provenienti dalla Palestina o da registi palestinesi che sono nella diaspora. Lo scopo è quello di allargare lo sguardo sulla Palestina e sulla resistenza culturale palestinese. il 18 ottobre presso l'Emerson, dalle 19, l'ex Emerson, dalle 19 in poi verranno proiettati 7 dei 20 film che hanno partecipato al festival. Le tipologie dei film, come sempre, di Nazara Short Film Festival sono di 4 tipi: documentali, fiction, sperimentali e Gaza da Gaza, cioè gli abitanti di Gaza che volgono lo sguardo su Gaza. Alcuni film sono di animazione, sono stati realizzati proprio dalla scuola di animazione di Gaza, che ha continuato a lavorare fino a quando questo è stato possibile. Al festival parteciperà Nadia Yacoub, studiosa della cultura palestinese che vive in esilio da diversi anni. Nadia Yacoub è professore di lingue e cultura araba e presente nel Dipartimento di Studi Asiatici presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, oltre ad essere professore associato aggiunto presso il Dipartimento di Inglese e Letteratura Comparata. Ascoltiamo l'intervista di Claudio a Carlo. Parliamo ora del Nazara Festival, festival itinerante, e ne parliamo con Carlo dell'Emerson, che non ha bisogno di presentazioni. Allora Carlo, ci dici tu che cos'è questo festival e com'è che avviene all'Emerson? Sì, innanzitutto vabbè, un saluto a tutti gli ascoltatori. E il Nazara Palestine Short Film Festival è un progetto di cinema itinerante da e sulla Palestina. È nato nel 2017 e quest'anno appunto si ripropone iniziato questo fine settimana a Milano e CSA Next Emerson sarà la tappa fiorentina di questo festival. E il 18 di sabato prossimo, 18 ottobre, dalle ore 19. E lo scopo del festival è proprio quello di allargare lo sguardo attraverso il mezzo cinematografico di quelli che conoscono la questione palestinese, ma anche di quelli che si vogliono avvicinarsi per le prime volte. Ecco, ma la cosa, scusa se interrompo, ma una cosa che mi pare importante è che si tratti di brevi, di shorts. Sì, di, esatto. Ecco, questo è molto importante. Sono tutti corti, il massimo, sia per quanto riguarda il festival, sia per quanto riguarda la proiezione all'Emerson, sono 17 minuti e il minimo sono 4 minuti. All'Emerson proietteremo 6 di questi corti cinematografici e tutti appunto hanno un minutaggio ridotto rispetto a quelle che sono solitamente, insomma, le proiezioni cinematografiche. Sono tutti girati, prodotti da registi e registe, donne e uomini palestinesi, e riguardano la Palestina. Ecco perché ti dicevo che ritengo importante che siano brevi, perché attualmente mi risulta una elevata domanda di corti, perché il corto, il filmato corto, poi dà luogo a dibattito più facilmente, molto più facilmente che non il film lungo. Sì, innanzitutto volevo precisare che all'Emerson, quindi al dibattito, alla presentazione e anche agli interventi che presentano il festival, sarà presente Nadia Yacoub, che è un'insegnante, una docente di studi sulla cultura palestinese, ma non solo questo, ha anche scritto alcuni libri riguardo il cinema militante e dissidente palestinese. E la particolarità di questi corti è che condensano appunto quelle sono, perché sono, alcuni sono corti d'animazione, altri sono corti di fiction, documentari, però sostanzialmente condensano in uno spazio relativamente breve quelle sono le informazioni, diciamo sì, tra virgolette, che vogliono dare. C'è anche una particolarità, anzi due particolarità per quanto riguarda i corti palestinesi, e tra l'altro una cinematografia molto importante nell'ambito del Medio Oriente. Il primo è che diciamo, sotto certi aspetti sono anche stati, tra virgolette, costretti a fare, molti registi a fare corti così brevi proprio per la mancanza di, o meglio, la mancanza economica di attrezzature, ma anche perché diciamo, in questa maniera condensano in poco spazio le emozioni, le informazioni. E c'è anche un'altra particolarità che purtroppo appunto è frutto della situazione che c'è adesso, tuttora comunque nella striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania, è che questo gli permette di proiettare, o meglio, per esemplificare, forse un film di un'ora e mezzo, per quelle che sono le situazioni che sono state fino ad ora negli ultimi due anni, sarebbero interrotte, diciamo, dai bombardamenti. La proiezione dei corti gli permette anche, diciamo, di riuscire a proiettarli per intero, ecco, a condensare nello stesso momento, appunto, a iniziare un dibattito rispetto a quello che hanno detto, che hanno detto, quindi, e hanno narrato. Quindi tu mi dici che questi corti riguardano sia Gaza sia il resto della Palestina? Sì, o meglio, riguardano almeno quelli che sono selezionati per Emerson, sono tre che riguardano Gaza e sono prodotti direttamente da Gazawi, da abitanti di Gaza. Gli altri, almeno quelli abbiamo scelto noi, perché sono sette rispetto ai 20 che hanno partecipato al festival, diciamo, e noi ne proiettiamo appunto sette, sono, abbiamo scelto questa particolare di scelta, in particolare quelli importanti, o meglio, quelli si sembravano più significativi da un punto di vista storico e archivistico. Ecco, quello che tu mi dici, che ci sono alcuni di questi che sono filmati di animazione, questo sì, mi indica che andrebbero meglio magari nelle scuole, nelle classi inferiori, nelle medie, che spesso richiedono proprio dei filmati di animazione che sono più graditi ai ragazzi, soprattutto a quelli più giovani. Sì, ma infatti per esempio The In The Sand è proprio un filmato di animazione prodotto dalla scuola di animazione cinematografica, chiaramente, di Gaza, che sia la scuola che il filmato sono rivolti, sono fatti da ragazzi. Cioè c'è una scuola di animazione a casa, di animazione cinematografica a casa, una scuola per ragazzini, che a sua volta ha prodotto questo filmato d'animazione che parla appunto della scuola del filmato d'animazione di Gaza. E quindi, insomma, questa particolarità, infatti è una scuola, sono ragazzini, e la scuola in sé serve proprio a portare in questa forma, diciamo, un po' diversa, questa forma più adatta magari da un punto di vista del linguaggio per i ragazzi, a portare questi filmati prodotti a questa scuola nelle varie scuole Gazawi della striscia, insomma, ecco. Ecco, in questo caso un'ulteriore domanda. Per averli questi filmati, poi c'è modo di disporne? Sono accessibili? Uno li può scaricare da qualche parte? Allora, i filmati, allora uno dovrebbe, allora c'è il sito del festival, che è nasrafilmfestival.com, comunque lo cercate digitando festival. Ora intanto lo ricerco, perché l'importante è che si possano scaricare, poi ce lo troviamo. Allora, noi l'anno scorso, per esempio, abbiamo proiettato a febbraio alcuni dei corti che erano stati proiettati al centro sociale, che erano stati proiettati al festival precedente, quello del 2024. Ora, in questo momento i corti di quest'anno verranno prima proiettati nelle varie tappe del festival, appunto un festival itinerante, e poi successivamente saranno a disposizione di chi lo ritiene, insomma, uno le ritiene proiettarle. Per cui successivamente, alla fine del tour, che finirà il 29 ottobre, poi uno sente tramite il sito nasafilmfestival.com e poi almeno noi l'anno scorso ci siamo messi d'accordo, poi loro ci hanno inviato il link ai film, che ai cortometraggi che volevamo proiettare al Centro Sociale, e poi li abbiamo scaricati. Però bisogna sentire, bisogna mettersi in contatto con il Nazra Film Festival. Benissimo, allora senti Carlo, dici se hai altro da dirci, ben gradito, se no ripeti per favore a che ora e quando è il Nazra Film Festival all'Emerson quest'anno. Allora, innanzitutto volevo precisare, Nazra significa sguardo in palestina araba e quindi anche in palestinese, e il Nazra Film Festival, la tappa fiorentina, sarà il CSA Next Emerson sabato 18 ottobre, con inizio alle ore 19 con la proiezione di due cortometraggi di un altro festival, in questo caso francese, che è, diciamo tra virgolette, gemellato con il Nazra italiano, e poi successivamente, approssimativamente dalle ore 21, la proiezione dei sette corti del Nazra 2025. Bene. Ci sarà anche la cena a buffet, di modo che ci sia la possibilità comunque per chiunque arriva prima, arriva dopo, arriva durante, comunque anche di visionare tranquillamente le proiezioni, i cortometraggi. Sarà presente Nadia Yacoub, come detto precedentemente, una storia del cinema militante palestinese, e quindi siete tutti e tutte invitate a partecipare. Bene, grazie Carlo. Allora a sabato prossimo. Ciao, a presto. Grazie a voi, ciao, ciao. صوبك بتدل كلمة بتمرق بالحرام شوفك بتطلع بالكل قايل لي في إشارة بعيونها صوبك بتدل كلمة بتمرق بالحرام شوفك بتطلع بالكل حاجة تحلل بحياتك تسلم لي تحليلاتك من مرة لمرة عم ترجع لورا ولاد الحارة كلهم أبدا عرفوا حبوا من عدائك عايشين وحدة ملاك أو بلا حبك يا ولد يا ولد حاجة تحلي عن هواك ضحك لكن E sempre dal Media Center di Radio Wombat ascoltiamo ora un contributo di Onda Rossa dal titolo Come certe questioni si riversano sui nostri territori. Analizziamo quindi i rapporti tra ACEA e Mekorot, la compagnia idrica israeliana che è complice del colonialismo contro la popolazione palestinese e che continua a collaborare con l'azienda ACEA dal 2013. La pressione dal basso per costringere il Consiglio Comunale di Roma e ACEA ad assumersi la responsabilità di agire. Siamo con Paolo del Forum dell'Acqua, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per questa partecipazione. Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. E parliamo di acqua, di Roma e di Israele tutto insieme, perché il 18 settembre scorso in Campidoglio è stato votato sì di mettere la bandiera della Palestina sul tetto del Campidoglio, ma è stato votato anche qualcosa che riguarda strettamente ACEA, il gestore, insomma l'agenzia che si occupa dell'acqua di Roma. Ce la vuoi raccontare tu? Sì, guarda, è stata approvata una mozione in cui si dice che il Comune, insomma, deve, Roma Capitale deve adottare tutte le iniziative utili a sostanzialmente sospendere, però, non cancellare, sospendere il memorandum, cioè una sorta di protocollo d'intesa, joint venture, accordo tra la Mekorot e la SEA. La Mekorot è l'azienda israeliana che gestisce il servizio idrico, insomma le risorse idriche in generale in tutta sia Israele che Palestina, e in tutta la Palestina sostanzialmente gestisce l'acqua come risorsa anche nei confronti del popolo palestinese. Sono sostanzialmente quelli che rubano l'acqua nei territori occupati, per quelli che proprio sono stati anche, diciamo, denunciati. È stata denunciata l'iniziativa di Mekorot nei territori occupati per apartheid idrico, cioè c'è una discriminazione di fatto. Sono dati, ci sono tanti dati che raccontano di come attraverso il braccio della Mekorot sostanzialmente il governo israeliano discrimina l'approvvigionamento nei confronti del popolo palestinese, sia nei territori occupati che no. Come? Sostanzialmente garantendo la distribuzione dell'acqua, dei vari acquiferi, dei vari pozzi, all'89% al popolo israeliano e il rimanente 11% al popolo palestinese. Quindi già queste percentuali danno l'idea, no, della discriminazione. In più c'è sostanzialmente un divieto, perché non vengono rilasciati i permessi di costruzione di infrastrutture idriche, sia per uso domestico, pozzi, piuttosto che anche serbatoi per l'allevamento o l'irrigazione. Quelli che vengono costruiti, perché appunto si fanno per sopravvivenza, vengono distrutti dall'IDF, dall'esercito israeliano, e quindi creando ovviamente una situazione di stress idrico enorme in tutta la Cisgiordania, per non parlare poi di Gaza, perché Gaza soffre terribilmente di una mancanza d'acqua ormai da anni, se non decenni, perché appunto le varie guerre, i vari attacchi che sono stati fatti nel tempo da parte di Israele hanno teso anche a distruggere tutte le infrastrutture idriche, oltre ad inquinare ovviamente quella risorsa presente, a sovrasfruttare l'acquifero costiero, che è quello da cui si approvvigionerebbe la popolazione di Gaza, e quindi a rendere possibile l'ingressione marina, e quindi sostanzialmente l'acqua non è più utilizzabile per uso umano perché diventa salmastra, salata. Ecco, ci sono una serie di azioni, iniziative che dicono chiaramente che la Mekorot si comporta in maniera discriminatoria nei confronti del popolo palestinese, non garantendo l'accesso all'acqua sostanzialmente. Ed è addirittura responsabile di una delle forme di apartheid, quindi, e oggi che siamo nel 2025 possiamo dire di una delle forme di genocidio, perché insomma la questione dell'acqua è molto rilevante anche nel genocidio Mekorot, ricordiamoci bene questo nome. Ora, nel 2011 ci fu il referendum sull'acqua. Nel 2013 il Comune di Roma sigla questo memorandum con Mekorot. Perché? Che ha significato in questi anni? Ma guarda, ha significato sostanzialmente un'alleanza strategica dal punto di vista dello scambio di esperienze, di tecnologia. È evidente che da questo punto di vista la Mekorot non deve imparare quasi da nessuno, no? Già da il primo presidente dello Stato di Israele disse, no, che dobbiamo trasformare il deserto in un giardino proprio attraverso lo sfruttamento dell'acqua. Pensiamo appunto a quello che è stata la guerra dei sei giorni del 1967, che sostanzialmente è stata una delle prime esplicite guerre per l'acqua, perché attraverso la conquista delle alture del Golan Israele si è accaparrato le più importanti sorgenti del Giordano, che è praticamente, non dico l'unico, ma il più grande fiume della zona, che poi tra l'altro attraversa tutta la Cisgiordania, no? Fino al Mar Morto. E ecco, pensiamo che per esempio uno dei divieti orrendi che sono in campo è il fatto di non poter accedere per il popolo palestinese all'acqua del fiume Giordano. Anche, ecco, quindi quello che ha significato è stato che c'è stato uno scambio continuo tra ACEA e la Mekorot. Noi avviamo subito dopo, diciamo, la notizia di questo accordo stipulato nel 2013 una campagna no all'accordo ACEA Mekorot. Ci furono tante iniziative che si fecero negli anni successivi, non si raggiunse, diciamo, il risultato. Oggi la mozione potremmo anche definirla una vittoria, però in maniera molto cinica, perché c'è voluto un genocidio per arrivare a una decisione del genere, che non è neanche definitiva, perché si tratta di una sospensione, no? Si dice fino al superamento della drammatica crisi, che è anche una dicitura piuttosto ambigua. Ma io direi proprio anche falsa, perché come si fa a superare un genocidio? Qualcuno ce lo dovrebbe spiegare, no? Quando è il termine per cui un genocidio viene superato? Sulla base di quali criteri? Cioè, vuol dire sostanzialmente nascondere il fatto che ci sia un genocidio, ma che c'è una crisi che ovviamente prima o poi si supererà, no? Ma non è così la realtà dei fatti. Quindi è parecchio ambigua. Però certo vuol dire che anche su quell'aspetto, no, un po' di attenzione c'è arrivata. Ovviamente c'è un'altra questione che poi attiene, no, al fatto che ACEA non è una municipalizzata, un'azienda del comune, non è un'azienda pubblica, è una società quotata in borsa. E a suo tempo, quando noi chiedevamo informazioni, no, di dettaglio rispetto all'accordo, quello che veniva risposto è che ACEA non era tenuta a dare queste informazioni, in quanto, essendo società quotata in borsa, se dava informazioni e dati al Comune di Roma discriminava gli altri soci. Quindi capiamo che poi questa mozione è, diciamo così, è uno stimolo, un segnale, ma poi chi decide è il CDA di ACEA. E quindi questo è già, come dire, un evidente, ma è stato detto mille volte, tradimento del referendum, perché certo, è una società quotata in borsa, quindi non è pubblica. Non è pubblica e appunto non risponde neanche al suo azionista di maggioranza, diciamo così, perché il Comune di Roma è al 51% delle quote, ma più di una volta su diversi temi, in diversi ambiti, alcuni consiglieri su nostra richiesta hanno fatto accesso ad atti per avere informazioni, e la risposta è stata questa. Quindi ecco, bisogna contestualizzare bene, no? altri si può sembrare un atto fondamentale dirimente, ma in realtà bisogna vedere effettivamente se diventa efficace, perché c'è un passaggio interno all'azienda in cui il comune non tocca palla praticamente, o meglio sì, ha i suoi consiglieri nel consiglio di amministrazione, però bisogna capire poi che cosa decidono anche, no, i soci privati di fare, e se effettivamente nel tempo questo accordo è diventato strategico. Sappiamo che la Mecorot ha stipulato accordi del genere in tantissimi paesi, no, in giro per il mondo, in Argentina, gran parte dell'Argentina, le aziende che gestiscono il servizio idrico per esempio hanno accordi simili, ecco, per cui è evidente che è diventato una potenza rispetto all'acqua in giro per il mondo, con il know-how fatto però sulla pelle del popolo palestinese. Sì, dopo che il 18 è stata votata questa mozione, correggimi se sbaglio, ACEA non ha fatto sentire la sua voce ancora. Noi non ne abbiamo notizia, io non ne ho notizia. E il timore è che, come in tante altre occasioni, appunto ci si nasconda dietro un dito e diciamo ci sia stata una presa di posizione da parte della maggioranza capitolina attraverso l'approvazione di questa mozione, e sicuramente un passaggio insomma che ha un senso. Però ecco, bisognerebbe capire poi effettivamente, no, l'efficacia, e capire che cosa la società intende fare. Secondo me butteranno la palla in tribuna, cioè faranno finta di nulla, insomma non è un atto coercitivo, ecco, una mozione, no? E quante mozioni si approvano, no? Anche più decorose e più importanti, ma rimangono purtroppo, no, lettera morta, cioè si impegna il sindaco a fare qualcosa, ma poi in realtà gran parte delle volte non si è conseguenti e non si è coerenti. Quindi vedremo. Si impegna il sindaco da parte della mozione, ma anche per quanto riguarda il sindaco e tutta la giunta, forse questo potremmo chiedere, no? Che ci dicono che anche la giunta prenda parola su questo. Che certo, che diano delle risposte, che siano conseguenti e che facciano comunque sentire la propria voce anche rispetto all'azienda, almeno per questa sospensione, cioè che sia reale e non, appunto, non rimanga qualcosa solo scritto nero su bianco, no? E poi magari, ecco, fare il passaggio ulteriore, cioè non è solo una sospensione a tempo determinato, ma che sia una cancellazione definitiva. Cioè, se ci sono appunto denunce rispetto a un apartheid, a una discriminazione nei confronti del popolo palestinese per l'accesso all'acqua, quindi un bene vitale, ecco, non è che questa cosa si supera. È dal 1982 che Mecorot gestisce l'acqua e la risorsa idrica nei territori palestinesi, quindi non è un qualcosa che è di ieri, e quindi dobbiamo ancora capire che cosa sta succedendo, no? È un'evidenza, è un'evidenza conclamata. Ma immaginiamo anche solo il tracciato del muro che divide appunto Israele dalla Cisgiordania. Se si va a sovrapporre il tracciato del muro con la distribuzione della risorsa idrica sotterranea e i pozzi più importanti che vanno a pescare da quell'acquifero, si vede che il tracciato ingloba dentro Israele tutti i maggiori pozzi e tutte le maggiori infrastrutture. Quindi capite che c'è una strategia ben definita rispetto a questo, no? È evidente che chi è che dà indicazioni, no, a fare ciò, dietro sicuramente c'è la Mecorot e il suo expertise. Quindi giunta di Roma, consiglio d'amministrazione di ACEA e consiglio comunale, se non vogliate continuare a essere complici di un genocidio, sapete che cosa dovete fare, e dell'apartheid e del colonialismo. زي الفواكه حتى لو غيروا رأيه زي المال عيني يشوفوا حيدوبوا زي Per la consueta rassegna musicale, in questa puntata avete ascoltato musica dal presidio di Piazza Dalmazia. Era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione, che sarà il 29 ottobre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. وحدي وطني صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة تشاو